Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi. Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi. Se vieni nel mio quartiere, potrai vederlo come un cantiere. Solo che non userai la calcina, ma dovrai lavorare con la cocaina. Meglio non entrare in quest'ambiente. Troppe cose succedono per incidente. Da troppe persone sono odiato. Hanno sperato che venivo condannato. Per troppo tempo sono stato al buio. Mi sono trovato davanti a un bivio. Cerco di stare alla larga dei miei nemici. Dovrei temere di più i miei amici. Sono stato testimone della morte. Avrei preferito fargli la corte. Mentre passo accanto a te Finocchio, ci sei te che mi preghi in ginocchio. Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi. Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi. Ho conosciuto tanta gente in tante occasioni. Mi sento troppo grande con tante delusioni. Non sto sognando e non sto vivendo. Ho le visioni anche quando non sto dormendo. Non riesco ancora a capire quella gente che mi chiede che cosa hai in mente. Rispondo rabbia, tanta rabbia. Mi sento come un leone rinchiuso in una gabbia. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Chi sono? Lo saprete al momento opportuno. Non ti devo dimostrare proprio niente. Prima accusi, poi dici che sei innocente. Riposa in pace dove sei nato. Un'altra chance non ti sarà più dato. Dici che sono randagio come i cani. Ti farei fuori con le mie mani. Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi. Reagisce ai problemi, alza sulla testa. Questo mondo è pieno di doppi giochista. Ci tocca diventare troppo cattivi. Per colpa tua ho trovato i miei motivi.